Ragam-ragam doang gosita-sita di hitam Malaysia. Marasing-asing doang gopangi doang di ganuk-ganuk jema. Hamoraun hagabeun hasanga ponido di lului nadeba. Di nadeba tunga satar balita gowarna tahe. Tak.